frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. Ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova puntata di Frequenze sui Generis. In studio oggi ci sono io che sono Vivi e con me ci sono Mari, Anna e abbiamo anche una ospite. Anna, tu sei molto contenta? Sì, io sono molto emozionata perché con noi in studio oggi c'è anche Alina, che è la ragazza che con me l'anno scorso faceva Sui Generis senza il Frequenze. E finalmente sono riuscita a riportarla in studio e sono tanto tanto contenta. Ciao a tutte voi, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sono molto emozionata di essere ritornata qui in studio e molto carica, devo dire anche. Molto carica anche perché da cosa sei rimasta così carica? Perché oggi è il 27 novembre e... Sono stata alla manifestazione contro la violenza maschilista sulle donne, contro la violenza di genere a Roma, organizzata da Non Una Di Meno. Eravamo tantissime e tantissimi anche, nonostante quello che si dice, quello che si narra, ed è stata un'occasione di forza, di energia, super colorata. Non vittimizzante, ecco. Allora, il tuo entusiasmo, cara Alina, si sente tutto quanto, quindi avrete tutti quanti capito che la puntata di oggi verterà proprio sulla narrazione dalla viva voce delle persone che sono state alla manifestazione del 25 novembre, però non possiamo iniziare la puntata senza la selezione musicale della nostra Giulia, che oggi non è qua, però come al solito si è occupata della recensione della proposta musicale. E infatti la proposta musicale della settimana, più che un artista o un gruppo, riguarda una figura tecnica che c'entra molto con la produzione del suono. Se il nome di Marta Salogni non vi dice niente, consigliamo la bella intervista fatta da Rumore qualche settimana fa a questa giovane ingegnera del suono italiana, stabilitasi ormai da 7 anni in pianta fissa a Londra. È importante infatti tenere conto del lavoro che viene fatto nella produzione di ogni singolo brano musicale. Oltre al contributo degli artisti, c'è tutto un lavoro di post-produzione che spesso è anche quello che dà una vera e propria direzione, una forma alla sonorità, che diciamo è poi il messaggio vero e proprio che un artista vorrebbe dare alla propria opera. Bene, questo lavoro consiste in mixaggio, bilanciamento di suoni e strumenti di modo che siano in armonia tra di loro. Marta, che è al momento una delle produttrici più richieste sul mercato e ha collaborato ad esempio con Björk, Goldfrapp, The XX, ammette che nel suo lavoro purtroppo si vedono ancora troppe poche donne emergere. Nel raccontare la propria storia, fatta di incarichi sottopagati o di presenza negli studi di registrazione, come ha detta alle bevande, racconta di organizzare momenti formativi dedicati alle sole donne, ragazze che si vogliono approcciare a questo lavoro. È un esercizio che possiamo fare anche noi, in effetti, senza per forza entrare in uno studio. Quando andiamo ai concerti, tra i tecnici, quante donne foniche o armeggiare coi mixer e strumenti musicali vediamo? Addirittura sul palco ci sono ancora poche figure femminili tra i musicisti, a meno che non siano cantanti o al massimo bassiste. Anche quello della musica resta un mondo prettamente maschile, in cui le donne emergono solo rispetto a determinati generi o ruoli. In attesa di poter eventualmente dedicare una puntata sul tema, la proposta musicale riguarda alcuni brani su cui Marta ha messo le mani e ve li proponiamo con il suggerimento di fare particolare attenzione alla costruzione dei suoni e al modo in cui si intersecano e si sovrappongono con grande maestria. Esatto, e tra poco andremo anche ad ascoltare questi brani, ma prima di prenderci una prima pausa musicale andiamo a presentarvi un po' di più come si svolgerà la puntata di oggi. Infatti subito dopo la prima canzone ascolteremo un sacco di contributi che le persone ci hanno mandato dalla manifestazione di Roma, in cui spiegano perché si sono trovate lì e soprattutto che emozioni hanno provato. Insomma, cercheremo un po' di rivivere anche noi su queste frequenze l'emozione che ha riempito Roma, e non solo l'emozione, anche le richieste, le istanze portate. E siccome c'è stato un dibattito, diciamo, a livello di media nell'ultima giornata su questo tema, no? C'è stato un dibattito sul fatto che un uomo, un video di Repubblica, è stato allontanato dalla testa del corteo, perché nel corteo di sabato la testa era guidata dalle donne. È stata proprio una scelta dell'Assemblea di Non Una Di Meno. E c'è stato questo scontro che ovviamente è stata una delle cose che ha avuto più risalto a livello di media nazionali sulla manifestazione. Cioè delle persone in piazza non è che importasse tanto, e delle istanze portate neppure, però del fatto che un uomo sia stato allontanato dalla testa del corteo e allora le femministe sono tutte brutte e cattive e fanno violenza agli uomini, sì. E allora noi inizieremo questa puntata ascoltando soprattutto gli audio degli uomini, poi ascolteremo donne e di nuovo uomini, non siamo riusciti a metterli tutti in ordine, ma alla testa della nostra puntata ci sono gli uomini. E ti volevo chiedere, Alina, tu anche hai partecipato al corteo, no? Cioè, cosa hai pensato di questa cosa, del fatto che in testa gli uomini non ci potessero stare? All'inizio devo dire che mi ha fatto un po' pensare, però a volte bisogna fermarsi, non avere una reazione immediata, perché purtroppo i media mainstream o non ne parlano o ne parlano male. Infatti quel video di oggi di Repubblica l'ho trovato alquanto fuorviante, con l'obiettivo di raggiungere più click possibili, quello che si chiama oggi clickbaiting, quindi non fare del giornalismo vero e proprio, però creare un po' scompiglio, perché delle manifestazioni si parla se c'è violenza, delle manifestazioni si parla per far emergere le contraddizioni, però bisogna pure entrare nel merito. L'assemblea, infatti, di Non Una di Meno aveva deciso che la testa del corteo fosse composta da sole donne, proprio perché il messaggio era partire dai bisogni delle donne. E non è vero che non c'erano uomini, c'erano tanti uomini che non sono stati allontanati, e anche l'assemblea di ieri ha dimostrato quanto in realtà la partecipazione maschile non è vietata, gli uomini non vengono esclusi, però in realtà ci sono stati vari contributi anche nell'assemblea stessa. E quindi tra poco inizieremo appunto ascoltando proprio i contributi degli uomini, perché comunque, anche se vogliamo difendere la manifestazione da, diciamo, la narrazione che ne è stata fatta con Repubblica, vogliamo anche far partire appunto dalle voci degli uomini, perché non so quale fosse il messaggio che voleva passare l'assemblea di Non Una di Meno, sinceramente me lo sono chiesta, e a tratti gli do ragione e a tratti no, però quelle sono cose personali. Ma in ogni caso, almeno io penso che sia importante che anche gli uomini partecipino a manifestazioni come quella del 25, ma non che vi partecipino perché solidarizzano con le donne, cioè io penso che sia importante proprio perché il femminismo riconosce un sistema sociale che coinvolge anche gli uomini. E un sacco di ragazzi hanno detto proprio queste cose e anche altre molto più interessanti, quindi andiamo ad ascoltare il primo pezzo e poi ad ascoltare i primi contributi. Clean. ciao, sono qui a questa manifestazione come le altre volte, ormai anche un piacere e un dovere partecipare a queste manifestazioni, vi partecipo sin dall'inizio, oggi in particolare è importante perché si lega anche a un piano ben strutturato che mostra che questo movimento è attivo non soltanto sul piano della protesta ma anche su quello della proposta. Su questo anche gli uomini hanno molto da imparare, insomma, nel proporre politiche che possano cambiare le condizioni che andiamo a criticare. Come mi sento rispetto alla violenza sulle donne? Penso come molti della mia fascia generazionale assistiamo un po' a queste notizie con un certo sbigottimento e raccapriccio, penso un po' come le donne, quando leggiamo degli slogan se colpiscono una colpiscono tutte, pensiamo immediatamente se colpiscono una colpiscono tutti anche, perché la sentiamo una ferita anche per noi uomini e penso di parlare anche in termini generali in qualche modo. Può essere vero che come uomini abbiamo espresso un nostro discorso complessivo sul tema, ma a pelle con tanti altri compagni sento una complicità su queste tematiche e quindi la solidarietà, ma anche un contributo costruttivo su questi temi ci sarà sempre, spero nella maniera sempre più propositiva possibile. E Alessandro, uno di meno, Roma. Sono qui perché in quanto uomo sento il peso della violenza che noi uomini commettiamo sulle donne e quindi questo è profondamente ingiusto e sono qui per manifestare contro questo. Da uomo, ti senti partecipe ai problemi delle donne? Sei qua per testimoniare oppure sei qua a accompagnare la ragazza? Io mi sento parte del problema. Perché sei qui oggi? Sono qui per manifestare per quella che credo debba essere... Non ci dovrebbe in realtà essere bisogno di manifestare per queste ragioni, solo che noi viviamo in una civiltà che purtroppo tende a dover ascoltare più volte gli stessi messaggi e a ribadire non solo l'ovvio ma anche quello che è umanamente riconoscibile come giusto. Sono qui per un motivo preciso, per imparare, perché le sorelle, amiche, compagne che conosco hanno fatto un percorso prima personale, privato e poi in comune, collettivo, cosa che ad oggi gli uomini non sono ancora riusciti a fare, o meglio i maschi. E quindi da questa manifestazione, da questo movimento, da queste idee, come maschio noi dovremmo solo che imparare che significa ascoltarsi, guardarsi dentro e capire il nostro ruolo, che non è quello che ci hanno inculcato. Ritorniamo un attimo in studio dopo aver sentito questi contributi perché li troviamo contributi veramente molto interessanti. Volevo dire una cosa, Anna, rispetto a quanto dicevi tu introducendo un po' l'articolo di Repubblica e il fatto che avesse un po' polemizzato sull'esclusione degli uomini dalla testa del corteo. Io ricordo che l'anno scorso c'era stato questo problema e alcuni uomini si erano sentiti un po' estromessi, ma parlando si era scoperto che comunque c'erano anche tante donne che magari erano nella testa del corteo, donne che avevano subito violenza, donne che magari erano perseguitate e lo erano ancora in quel momento, perciò per loro pensare di poter venire in una manifestazione, in un luogo pubblico, in un contesto di sicurezza, era una cosa fondamentale per poter partecipare a un evento come questo. Forse questa è una cosa a cui non pensiamo, è qualcosa su cui di solito non riflettiamo e se ci dà fastidio, bene che ci dia fastidio, perché per delle donne uscire in uno spazio pubblico è qualcosa che può essere fatto soltanto se c'è un contesto di sicurezza intorno. Un'altra cosa che ho ritenuto molto interessante è stato il commento di un manifestante che ha detto noi uomini, perché insomma le donne subiscono violenza da noi uomini, e è stato molto interessante perché io credo che quell'uomo, essendo lì in quel momento, sia una persona che sicuramente si è fatto delle domande e che non credo abbia un atteggiamento, diciamo, di prevaricazione nei confronti delle donne, però non ha fatto un commento dicendo alcuni uomini, certi uomini, ma non io, no? Un po' lavandosene le mani, cioè anche se lui si sente diverso, si sente comunque di appartenere a un genere che è un genere oppressivo, e secondo me questo è un punto fondamentale. Sono assolutamente d'accordo e quello che notavo è anche un po' una differenza nel modo in cui gli uomini cominciano a partecipare, no, alle manifestazioni contro la violenza sulle donne. Ricordo quando nei primi anni di attivismo femminista, ricordo la campagna del fiocco bianco, quindi gli uomini in occasione del 25 novembre mettevano questo fiocco bianco per dire io sono contro la violenza sulle donne. Poi qualche anno fa c'è stata la campagna Noi No per dire noi uomini contro la violenza. Assolutamente campagne fondamentali, importanti, però come diceva Mari è anche importante dire noi sì, cioè noi uomini facciamo parte di un genere che opprime le donne e in qualche modo, anche se non siamo personalmente violenti, dobbiamo fare i conti con il sistema di cui facciamo parte. E quindi mi piace di questi contributi anche il fatto di sottolineare l'importanza di scendere in piazza, quindi un modo diverso, non soltanto mettersi un nastrino, ma proprio attivamente scendere in piazza e partecipare insieme con le donne in una giornata che vuole essere contro la violenza sulle donne, però anche vuole essere una giornata di riflessione. Un manifestante lo diceva, è anche un modo nuovo di ascoltarsi, di guardarsi dentro. Ecco, e a questo punto, proprio a proposito di scendere in piazza, a me anche il fatto che ci sia tutto questo rumore di fondo sotto questi nostri contributi mi ricorda un sacco le emozioni che ci possono essere in una manifestazione, quindi mi piace sia il fatto di averli ascoltati sia il fatto che ne ascolteremo ancora un sacco, e siccome siamo anche strette coi tempi, direi di andare ad ascoltare i prossimi a questo punto. Ciao, io sono Veronica, questa è la seconda volta che sono qui alla manifestazione e sono qui principalmente perché mia madre per 20 anni ha subito violenza da mio padre, violenze fisiche e psicologiche che poi abbiamo subito anche io e mia sorella, e quindi è giusto esserci tutti insieme. Ciao, sono Giorgia, è il secondo anno che partecipo alla manifestazione. Sono qui principalmente perché fino a 14-15 anni ero convinta fosse normale che la domenica io e nonna stessimo in cucina mentre zio e nonno si guardavano la partita, perché non dovevamo disturbare né portare sfiga. Siamo qua per accompagnare questo progetto futuro di libertà e non violenza di tutte le donne del mondo. Okay. Posso chiederti come ti chiami, quanti anni hai? Lo so, certo, che non si chiede l'età. Ma che me ne frega. Mi chiamo Carla Benvenuti e ho 60 anni, ahimè. Okay. E sta ancora qua a manifestare? Certo, sì. Quindi ci crede anche nelle, certo, manifestazioni? Certo, è fondamentale. Perché sei qui e cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Io mi aspetto che ci sia un riconoscimento da tutte le istituzioni, politiche e sociali, dell'importanza dell'evento qui che si, no, alla quale si protesta, che è la violenza contro le donne, e che sia un riconoscimento che tutto il lavoro che fanno le donne per lottare contro la violenza, tutte le case e di difesa della donna, tutti i centri, no? Antiviolenza vanno sostenuti culturalmente, politicamente e economicamente dalle istituzioni politiche. Grazie. Vuole dire qualcosa anche lei, visto che è un uomo, che insomma anche la parte maschile serve? Speriamo che serve. Quella decisiva, quella femminile. Ciao, perché siete qui oggi? Cosa vi aspettate da questa giornata? Io è la seconda volta che partecipo a questa manifestazione, avendo creato una pagina femminista, essendomi avvicinata a questo tema da più o meno 10 anni ormai. Mi aspetto la solita forza di ogni anno, la solita grinta e la possibilità di un cambiamento, piano piano e con la forza di tutte. E abbiamo sentito un po' di contributi, rientriamo un attimo in studio prima di fare un altro stacco musicale, ma prima ancora dello stacco, Alina, che ha raccolto anche parte di questi contributi, tu stavi dicendo prima qualcosa a proposito delle emozioni che hai provato anche nel raccoglierli, no? La cosa più sorprendente e che dà forza è il fatto che sono racconti di vita quotidiana che vanno dalla violenza fisica, quindi il caso più estremo che purtroppo fa parte della quotidianità, cioè non è raro, alla divisione nelle faccende domestiche, quindi del tempo di cura, e avvicinano anche donne che non sono per forza politicizzate, ma riguardano appunto la vita di tutte, diceva una ragazza. Ma infatti Alina è proprio questo il punto, cioè il fatto che sia una violenza che viene vissuta quotidianamente, in tantissimi gesti. Chiaro che la violenza che arriva fino al femminicidio è una violenza che riusciamo finalmente a riconoscere come tale, ma per arrivare lì i passaggi sono tanti e tutti questi passaggi li viviamo continuamente nella nostra quotidianità, semplicemente adesso alcune di noi sono capaci di riconoscere, perché come diceva appunto la manifestante che ci ha parlato di lei che stava con la nonna in cucina, con lo zio e il nonno che guardavano la partita, veniva ritenuto qualcosa di normale, quindi serve una consapevolezza per rendersi conto che in realtà questo normale non è. Sì, secondo me è proprio questo appunto che rende così unica, non una di meno, cioè il fatto di riuscire a mettere insieme, e ci riesce per le sue caratteristiche, cioè per le caratteristiche delle istanze che porta, che non sono specifiche, ma di riuscire a mettere insieme veramente tantissime realtà proprio diverse tra di loro, ma tantissime individualità soprattutto diverse tra di loro. Potrei parlare ancora per ore di questo tema, ma forse... Purtroppo Anna, dobbiamo un po' stringere i tempi perché la puntata sta giungendo al termine. Sì, purtroppo la sintesi non è il mio dono, ma in ogni caso mi autocensuro e direi ascoltiamo un altro brano musicale? Mi sembra un'ottima idea. Mi vedi, non sono giovanissima, queste battaglie le ho fatte da giovane, pensavo che qualcosa cambiasse e invece vedo che non cambia niente, per cui dobbiamo tornare in piazza, soprattutto i giovani e le giovani devono capire che il maschilismo è duro da combattere e si manifesta in tante forme. Noi speravamo, le ex sessantottine di aver cambiato qualcosa, e che purtroppo a malincuore vediamo che non è così. Prima di tutto perché vogliamo condividere il valore della solidarietà con le donne che non hanno voce per denunciare l'abuso nella sua casa, e perciò siamo qua oggi, per trasmettere il valore della solidarietà. Siamo donne latinoamericane che abbiamo voluto dare un segno, essere presente qui, e anche perché sappiamo bene che questo movimento è nato in Repubblica Dominicana e Argentina. E allora noi, anche se siamo poche, ma ci vogliamo fare rumore, e per quello anche il nostro slogan, Mujer que escucha, únete a la lucha. Oggi 25 novembre scendo in piazza a Roma per manifestare contro la violenza maschile sulle donne, perché sono contraria ad ogni forma di violenza, di discriminazione, di sessismo, di razzismo. Oggi 25 novembre scendo in piazza contro la cultura del senso di colpa, contro l'abitudine alla violenza sulle donne, contro ogni forma di abuso e sopruso sul corpo della donna. Scendo in piazza perché questo corpo è mio e decido io quando e se avere una gravidanza. Oggi 25 novembre scendo in piazza a Roma contro la cultura della giustificazione alla violenza sulla vita delle donne. Nessuna violenza è giustificabile. Allora siamo qui dal profondo sud, che è una categoria politica, come femministe terrone. Siamo lo striscione, lo spezzone più a sud qui a Roma, e nonostante appunto la distanza, diciamo, geografica, perché ognuno di noi ha fatto dei sacrifici per venire a Roma tra lavoro eccetera, e anche sacrifici economici perché ci autofinanziamo, pensavamo che fosse importante esserci all'interno della manifestazione nazionale, perché crediamo moltissimo nella forza che può avere e ha, nulla di meno, una rete nazionale per veramente spostare e mettere in discussione un ordine simbolico millenario. Cioè, l'unione fa la forza, l'energia femminista, queste alleanze politiche sono imprescindibili. Quindi siamo qui perché ci crediamo. Rientriamo in studio dopo questi altri contributi e stavamo riflettendo prima fra di noi che la ricchezza, la bellezza di questo movimento è che davvero raccoglie donne, uomini di ogni età, di qualsiasi provenienza geografica anche. Sì, infatti la ricchezza è che nel concetto donna rientrano molte soggettività, ed è questa la forza, secondo me, di Non Una di Meno, da donne trans che portano in piazza la propria esperienza, a donne meridionali, a donne in carriera o semplicemente anche persone non politicizzate del tutto, che però sentono questa necessità di scendere in piazza e di dire la loro. E dunque speriamo con questa puntata di essere riuscite a farvi vivere un po' dell'emozione che c'è stata per le strade di Roma il 25 novembre. E visto che abbiamo incominciato parlando dell'esclusione degli uomini dal corteo, finiamo sempre parlando di uomini, perché vi vogliamo segnalare un appuntamento che ci sarà questa sera presso la sala Ilaria Alpi in via Bentini 20 alle ore 21, un'iniziativa dal titolo Autonomia femminile e crisi del maschio, in cui si discuterà un po' qual è la situazione attuale dal punto di vista della maschilità. Quindi, siccome ci sarà anche qualcuna di noi a intervenire fra i vari relatori e relatrici, invitiamo tutte quante e tutti quanti a partecipare. E a questo punto siamo davvero arrivati alla fine della puntata, non ci resta che salutarvi, ricordarvi che potrete ascoltare la puntata in podcast e anche tutti gli altri podcast, se volete farvi questa bella carrellata, li trovate sia sul sito www.radiocittafucico.it che sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis. Appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14.30 alle 15, sempre sul 103.1 FM. Parleremo sempre di Roma e anche un po' di violenza sulle donne, nel senso che parleremo del sgombero, non è proprio uno sgombero ma è qualcosa di simile, che sta rischiando in questo momento la Casa Internazionale delle Donne di Roma. E a questo punto davvero buon proseguimento di ascolto e buona giornata.